Ricorsivamente, fra gli intellettuali di casa nostra si rimette in discussione l'insegnamento della filosofia. La prima volta che la questione fu posta nel nostro secolo fu probabilmente nel 1905, all'interno di una commissione ministeriale per la riforma degli studi scolastici in Italia. Di questa commissione facevano parte, fra gli altri, Gaetano Salvemini e Giovanni Vailati. Il primo, il 17 luglio dell'anno dopo, se ne andò sbattendo la porta insieme ad Alfredo Galletti, protestando contro le ingerenze ministeriali. Vailati invece rimase cercando di realizzare un suo disegno: abolire l'insegnamento della filosofia nei licei. In una lettera del 22 agosto del 1908 a Giovanni Papini, Vailati si lamenta della perfetta solitudine in cui si è trovato a sostenere queste sue tesi. Si dice lieto che questa fosse comunque stata ripresa da Salvemini e Galletti in un volume fresco di stampa intitolato La riforma della scuola media, e si prende beffe di quei professori che, tessendone le lodi ma non andando al di là del proprio naso, identificano la filosofia con ciò che si insegna dai professori della medesima. È come dire che i difensori della filosofia non avevano alcuna idea di compromettersi tentandone una definizione qualsivoglia. Vailati non avrebbe mai potuto immaginare che molti anni dopo, nel 1982, un filosofo, in un testo riverito dai ben pensanti, avrebbe affermato di nuovo, non per autodenigrarsi ma in tutta serietà, che per filosofia avrebbe dovuto intendersi qualsiasi cosa facciano i professori di filosofia. Chi volesse controllare legga Rorty, Conseguenze del pragmatismo, pubblicato a Feltrinelli a Milano, dalla Feltrinelli a Milano nell'86, mi sembra, a pagina 219. Nell'ottobre dell'anno scorso ci sono state alcune reazioni al tentativo imperialistico della filosofia di penetrare in quasi tutti i tipi e gli ordini di scuola. Carlo Augusto Viano, storico della filosofia e specialista della logica aristotelica, non era d'accordo e manifestò il suo dissenso. Lottacitò bruscamente Dario Antiseri, filosofo che è riuscito nel compito di coniugare Popper con l'asse Fini Buontempo in Camicia Nera e Pecora. Antiseri disse che soltanto la filosofia avrebbe potuto salvare i nostri giovani dagli imbonitori delle TV, dei partiti o di quelle di Berlusconi, e che soltanto la filosofia li avrebbe potuto disincantare dal fascino tribale delle teorie totalitarie. Nei giorni scorsi, infine, prendendo lo spunto dalle nuove teorie degli astrofisici, quelle nuove teorie secondo le quali prima della grande esplosione l'universo intero sarebbe stato racchiuso in qualcosa di grande come un pisello, l'avrete letto tutti sui giornali, Giuseppe Galasso decreta la vittoria definitiva della filosofia. Come dire che se i fisici dicono sciocchezze, allora automaticamente i filosofi dicono delle cose intelligenti. Non sono a conoscenza di tutte le ragioni che spingevano Vailati a voler salvaguardare la gioventù dalla filosofia, ma alcune di queste ragioni penso di conoscerle, altre penso di poterle immaginare e altre le posso aggiungere di testa mia. Vailati notava che sotto le pretese scientifiche del positivismo si annidava ancora la vecchia metafisica e che in troppe occasioni il cammino della scienza era ostacolato da una fitta nebbia di parole cui non corrispondeva alcunché di chiaro e distinto, parole che derivavano dritte dalla filosofia. Presumibilmente notava anche che di fatto l'insegnamento della filosofia si era ridotto a insegnamento della sua storia e si chiedeva come mai, dietro la diversità delle parole, le asserzioni filosofiche si ripetessero nei secoli uguali, senza progresso alcuno. Tutto ciò che ancora non include l'autocontraddittorietà di chi vuole fondare la conoscenza sull'impossibile confronto tra un'incognita fuori di noi e una cognita dentro di noi, tutto ciò avrebbe indotto in sospetto chiunque che, consapevolmente o meno, non servisse il potere. è per l'appunto la filosofia che ha sempre fornito un presunto fondamento agli imperativi della morale e al sapere della scienza. Quei sistemi totalitari temuti da Antiseri hanno trovato proprio nella filosofia la loro più sostanziosa giustificazione. Le autocontraddittorie follie dei fisici moderni, tipo lo spazio, il dentro e il fuori dello spazio, il prima e il dopo del tempo, eccetera, queste follie sono formulabili proprio in grazia della cospicua dose di filosofia di cui la fisica è inconsapevolmente ridondante. Dall'inizio alla fine del secolo, dunque, il dibattito non si è arricchito, ma anzi, ha perso per strada una delle alternative in gioco. Oggi si discute sull'opportunità di estendere le basi della subalternità intellettuale e non si prende neppure più in considerazione l'eventualità di abolirle. Anche questa facoltà andrebbe annoverata nell'esproprio della politica di cui siamo quotidianamente vittime.